Quella risonanza magnetica che era saltata l'altra volta. Mi chiamano ieri sera, tipo alle 5, e dice: buongiorno, abbiamo rimediato il problema del macchinario, dice lì ce la farebbe venire, sai, loro pensano che io possa avere impegni no lavorativi, ce la farebbe per venire per farla alle 11:30 di domani. Certo, ho detto, nessun problema. Quindi ho fatto tutto, poi per una settimana mi danno il referto. Ok. Dopodiché mi sono fatto una riposata dalle 3 di pomeriggio fino a poc'anzi. Non addormentato, stavo riposando. Ma stavo così bene con il lenzuolino sopra, in silenzio, no, senza TV, senza niente. Ero quasi in estasi. Beato te, io sono stanco molto. Sono qua seduto perché mi stavo rilassando. Oggi è una bellissima giornata, abbiamo fatto un sacco di cose, un sacco di lavori. Sono tutto il giorno a sale e scendi dall'autoscala. Fa male anche la schiena. Come ero molto fermo, non sono più abituato. Mi sono seduto qua, c'era un volume basso, stavo ascoltando sul 23 e ho sentito a te, proprio finestra aperta, rilassato, perché se me ne vado dal divano mi addormento, sono già le 7 quasi, poi non dormo stanotte. Allora mi sono entrato qua proprio a rilassarmi, seduto e niente, non ho il televisore acceso, sono al buio. Capito mi hai? Stanco molto, bellissima giornata oggi veramente, giornata estiva, un caldo da morire, c'è, cioè. Le maniche cotte, tutto gelato, mi sono fatto la doccia e mi sono seduto qua, infatti adesso c'è un filo di vento, non si sa se domani è brutto o se è giornata come oggi, se è giornata come oggi ci finiamo tutte i poggioli bassi domani, così. Sono finiti gli intonaci e si può iniziare a verniciare, ma sono gappetti, Marco, gappetti sono. Il lavoro nobilita l'uomo, eccetera. Vabbè, almeno impegni il tempo, dai, insomma. E qua c'è una pasta e fagioli che mi aspetta, me la dà adesso mamma. Quindi rimango anche ieri, per esempio, siete entrati o no? Sì, ho fatto già nessun tardi perché era impegnato. E poi c'eravamo tutta la sera io e Giulio, stavamo chiacchierando. E niente, mangia, non c'è problema, adesso sono qua io. No, ma avevo deciso di non fare più niente. Poi io conoscendo l'ore di soldi. Anche la verità, in questo periodo non ce ne abbiamo molto bisogno, però sono sempre comodo, quindi mi sono buttato in mezzo a questi lavori condominiali e ci ho buttato molto, infatti mi sa che domani mi fermo almeno un giorno, vabbè, venerdì, mi fermo venerdì, sabato e domenica perché non facciamo niente, non so, dipende cosa dobbiamo fare, secondo quello che dobbiamo fare non faccio nulla domani, perché sono stanco veramente. Mangia Marco, mangia, se devi mangiare, dai, già sono qua. Eia, bene, sì, oggi veramente è una bella giornata, per come ero leggero io, avevo una specie di polo, di quelle sottili, sottili però. Stava veramente bene oggi. Sono contento di aver fatto, se non l'avessi fatto stamattina saltava, siamo in ottobre, a novembre, saltavamo a novembre, invece meglio. Ho ritirato la creatinina, prima un referto che è perfettamente nella norma, no? Siccome quando ti fanno quel tipo di risonanza ti iniettano un liquido, no? Che serve a far risaltare ciò che è rimasto dell'ipofisi o di tutto ciò che è connesso lì intorno, no? Questo liquido può essere pesante da eliminare tramite veni, se i veni non sono proprio a posto magari preferiscono non dartelo questo liquido. Invece è tutto a posto, creatinina di lusso, i veni stanno ottimamente, quindi nessun problema. E poi siamo andati a Eurospin, mi ha accompagnato mia zia, ho preso la sabbia per la lettiera di gatti, ho preso delle acque piccole, acqua frizzante e bottigliette piccole, quelle che ci portiamo in macchina quando dobbiamo uscire. Pensa che ho voglia quasi di vedere il mare, anche se era un po' ventilato oggi. Poi non ne ho fatto, poi mi sono bello spaparanzato a letto e buonanotte. No, ma adesso già piace il riposino pomeridiano, capito? E c'è fresco e sta bello. Allora, tutto il giorno giù, ti ripeto, insomma, vediamo se terminiamo questa cosa, mi sembra sia andare a Bricome a ritirare il materiale. Prendere materiale, mi sembra stava dicendo così, quel muratore, ci vuole colla, ci vuole altra roba, vediamo, mi ritiro materiale, mi sistemo sul materiale e si riprende lunedì, vediamo, se il tempo è bello, non c'è vento, si può fare qualcosa, continuiamo, se non ci blocchiamo. Va bene, e adesso appena rientra Stefano qui ci organizziamo, andiamo a mangiarci una pizza a piacere, così ti rilasci. Vabbè, mangiati questa fatta e fagioli, va? Già sono qua io. Ok. Sono poi si raffredda. Non so se era con te che stavamo parlando di questa imitazione della Red Bull che hanno all'Eurospin, no? Tutte le imitazioni di Red Bull sanno di fragola, no? C'è quel sapore fragoloso, insomma, che può non piacere, no? Eurospin era l'unico che aveva una versione al gusto cola. Gusto cola, quindi era un misto tra gusto fragola e gusto Coca-Cola. Ed era buonissima. Beh, vado a prenderla dopo un po' di tempo e scopro che non ce l'hanno più quella versione. Tutti hanno la versione normale o light, ma il gusto cola non c'è più. Un prodotto valido, che era veramente valido come prodotto, non so perché non ce l'hanno. O non ce l'hanno più, non lo fanno più, oppure casualmente ce l'avevano esaurito nelle scorte, chi lo sa. Forse l'abbiamo esaurito nelle scorte, non lo so, non ne ho mai bevute quella roba lì, non ne ho mai comprato, mai bevuto, no? Non mi interessa, no. acqua, sciuggio, non ho bevuto di acqua. Sono salito la prima volta, ne ho preso una bottiglia di 3,5 fresca, dopo un'oretta sono salito di nuovo, ne ho preso un'altra bottiglia di 3,5 e la testa è rimasta giù nel magazzino, nel deposito. Adesso domani con le calda. Bella giornata veramente. Vabbè. A differenza del Campidano, sono rimasto un'ora al telefono con un mio ex collega di Cagliari, che mi ha detto meno male la parte sua non l'ha toccata lì verso a Semini, quarto, quella zona lì, ma la zona di Capoterra è completamente tutta alluvionata. Ho visto sulla nuova, dice, le foto del drone che mostrano l'alluvione Forse la Sardegna, infatti. E io ho pensato all'alluvione, in Oggi non piove mai. Poi vabbè, Sassari in pendenza, quindi l'acqua passa e va. Ma dove c'è zona, come dire, pianeggiante, lì resta, capito? Diventa una specie di palude. Ma il problema è che lì sono i monti, capito? I monti, lì è montagne, molta montagne, vedi anche Olbia. Olbia perché piove così? Perché c'è l'imbara, capito? Invece noi qua cosa abbiamo? Abbiamo nulla, e quindi. E vabbè, comunque, se piove bene già fa bene, se piove così a dirotto, se fa questi allagamenti, stai pur certo già prende anche a noi, che fa bomba l'acqua che aveva presa a sorso da una resa che l'ha fatto, mi ha buttato poco di muri e alberi e casini, non ricordo, o quella grandinata che ha fatto a Santa Maria Covina, si ne ha sfasciato poco macchine, di tutto, vetri, tutto, sembravano pietre. Lasciamo fare, vediamo cosa succede. Per la gioia dei carrozzieri. Per la gioia c'è la macchina nuova, ti si girano le balle. Arriva una grandinata del genere, il castello della Giacone già tutta. Ti voglio vedere, mica te la distrugge. Non è facile, la capotta come fai a farla? Ma stai scherzando. Fino a quando è un cofano va bene. Ma la capotta è un casino. E poi non è mai una macchina nuova. Una macchina vecchia, ci abbiglia e luci, ma chi c'ha una macchina nuova che ha speso un sacco di quattrini, non è una cosa bella da vedere. E caspita, infatti, se c'è una macchina nuova, una volta avevo visto una macchina a Sassari, ma tanti anni fa, che arrivava non so da dove, non era nostra. Era tutta bugnata, tutta ricoperta di bugne, di sicuramente era grande, tipo noci, tipo le noci, tutta sciabidata la carrozzeria. Sì, quella tu dicendo, quella che ha fatto il continente da poco, ma anche quella che ha fatto a Valle Doria l'anno scorso, che ci ha voluto riparare dentro un porticato perché mi stava sfasciando la testa. Con casco ci avevo che a riparare, la testa mi stava sfasciando, siamo riparati perché dentro la macchina ce ne siamo scesi, se parte qualche il parabrezza qua siamo nella merda, noi siamo messi dentro un porticato, ma grande, mi ha fatto poco di danno, ma poco, infatti il comune Valle Doria e Santa Maria Covina ci hanno chiesto lo stato di calamità perché aveva fatto un casino, aveva distrutto tutto il periodo dei carciofi, era novembre, capito? Era inizio novembre, aveva distrutto completamente tutte le carciofate, tutte, manco una se ne è salvata. E un casino che ha fatto, un casino ha fatto, vabbè. Va bene, va bene. Mandica io, mandica. Uscia. Esci, mi alzo, vado a bere, va. Sono qua, sono andato a aprire la mia tia un attimino. Che mi ha fatto la commissione di pigliare medicine dal medico. E un tirox, sempre per compensare lo stesso la tiroide che era un po' bassa. Cosa stai prendendo? Allora, quindi questa operazione, no, ha creato uno scompenso leggero della tiroide, quindi Eutirox per la tiroide, e invece cortone acetato, non so cosa sia, cortone acetato, è un altro ormone. Ciao, ci sentiamo, grazie. Cortone acetato, non mi ricordo cosa serva. Poi ti dirò che sto saltando quel minidin, che sarebbe l'ormone che regola la sete, non lo sto prendendo, però vedo che il corpo si sta autoregolamentando. C'è acqua, ne bevo almeno 3 bottiglie al giorno, però non sto andando oltre. Quindi l'hanno detto che sarebbe compensata la cosa, e poi più o meno, ma sarebbe compensata. E quindi quello posso anche non prendere, ma io mi ricordo dopo il ricovero, Dio Maria, 10 bottiglie da mezzo litro, no, 8 bottiglie da mezzo litro al giorno, quindi 8 da mezzo litro fanno quasi che, fai conto. Già non è nulla, ma visita di controllo non la devi fare più. No, di controllo ci avevo questa risonanza magnetica della zona ipofisaria. Poi per il resto niente, mi ha detto continua così a prendere quello che stai prendendo, molto cordiale, una persona veramente squisita, Mario Palermo, l'endocrinologo di Viale San Pietro. Si è adoperata in tutto, anche conosceva il chirurgo di su di Milano, quindi ho risparmiato tempo, diciamo. Sì, veramente persona gentile, non come certi medici scorbutici, questo è veramente, veramente gentile. Altrettanto l'infermiera professionale che mi chiama sempre per pigliare gli appuntamenti delle visite, dei prelievi, sapete? Bene. Poi il testosterone, hanno notato che era basso il testosterone, no? Chi lo sa, magari ce l'avevo basso anche prima, solo che adesso col testosterone sono sempre arretto, mi va il sangue al cervello, sto pensando sempre alle donne, mi sto guardando anche le sessantenni buone, le sessantenni, non so se mi spiego. Allora sei partito, stanno facendo effetto, ha ragione Gianni, è il momento buono per cercarti la donna. Perché in queste condizioni sono come il cane, come Filippo, ha bisogno di spruzzare a un certo punto, se no diventi matto. Vabbè, Filippo fai da te, tu inizi a fare da te, se no compare già di una bambola e plastica. Mamma mia, una cosa così squallida, no. Mi devo organizzare, dai, mi devo orgasmizzare. Metti l'articolo su internet, fatti un sito e ce lo scrivi. Cerco donna, scrivici capo di bugnetta, cerca donna. Capo di bugnetta. Lasciamo stare questo appellativo che è più che adeguato in questo periodo. Però questo, quello che mi chiedo io, possibile che questo cortisone sia sceso dopo l'operazione? Ma non è che era sceso anche prima, è perciò che non ne stavo cercando di. Ora seppure per qualche ragione è calato, era al di sotto del minimo. E vabbè. La normalità, adesso l'effetto delle medicine, e poi già si mette tutto a posto. Piscio, cazzo, sono, mi sta bene, mamma mia, ma che lo so, come, sono 7:30, esco a porto il cane, sono mi addormento, mi scendo giù verso l'edicola, una passeggiatina. Passeggiatina, mentre mia figlia entra alle 8:30, c'è 1:30 stanotte, di chiusura, quindi a cenare ceniamo leggero, non ci un po' di matriciana avanzata da pranzo, mi mangio quella e dopo mi sdraio, se no, ui ui ui. Ma se sei stanco si anticipa, porta prima il cane, se riesci a resistere mangia, poi vattene subito a letto, va. Io nel pomeriggio può darsi abbia anche dormicchiato, e proprio ero in uno stato di estasi, un po' coperto con lenzuolino così, una pacchia, guarda. Se dormissi naturalmente così la notte mi devo dopare perché vivo nel terrore io, di sera, di notte, c'è sempre questo meccanismo di... strano. Oh, c'era il primo periodo io quando sono andato via dal lavoro che mi faceva così. È più di un mese me lo sono portato. Stavo dormi sveglia sempre guardando che ora è. Io c'ho dalla mia parte, mia moglie l'ho voluta, io dalla mia parte quando lavoravo. Ho quella, la sveglia, quella orologio a raggi infrarossi, no? Quindi la vedi anche al buio. Se sempre mi giravo a guardare l'orario. Dopo le 6, aprivo gli occhi, sveglio, pronto a uscire, non ho fatto per più di un mese, proprio abituato a non avere sveglia, aprire gli occhi a quell'ora che andavo. E poi pian pianino me l'ho lasciato. Adesso mi alzo lo stesso verso le 8:30, così mi preparo, vado a prendermi a fare colazione ed Andrea, lì sotto casa di Antonello, mi siedo un attimino, ci sono anche altre persone che conosco prima del lavoro, ci vediamo lì, due chiacchiere, fumo una sigaretta, do un'occhiata al giornale e poi me ne rientro a casa verso le 9:10, così. Porto il cane, dalle 10 in poi non so più che cosa fare, capito? E quindi me ne vado assieme a questi dei lavori, da una mano a loro, sto con loro e passo la giornata, là, capito? Non è che entro alle 8, no, verso le 9:30 iniziamo sempre. Non abbiamo nessun contratto, è cosa nostra, quindi ce lo facciamo quando vogliamo noi. Va bene. Adesso sta imbrunendo. Poi dal 28 ottobre, mi pare il 28, che palle, farà buio presto, molto presto. E vabbè, però adesso sono già le 7:15, ci sono 7:20. Sì, dovrebbero essere 7:19. 16, 17 c'ho io, è quasi le 7:20, siamo quasi le 7:20, e beh, quest'ora è buio presto, 5:30 alle 6 inizia a essere già buio per il mese di ottobre, a novembre alle 5 è già buio, però fa luce prima, così è. Mi pare. Poi c'era questa storia che volevano eliminare, o l'ora solare o legale, non mi ricordo, volevano eliminare questo cambio di ora, perché non so se abbia molto senso più attuarlo, dovrei leggere qualcosa per documentarmi. E così mi stava dicendo Gianni l'altro giorno, o Giulia, se mi ricordo, che volevano eliminare il cambio dell'orario, non so se quale sia, invece mi pare che mi sia detto così. non so, era una questione legata ai risparmi energetici. Forse negli anni 60, 50, non mi ricordo quando è stato istituito, non mi ricordo. C'erano problemi di approvvigionamento di energia, magari ormai non, questa situazione non c'è più per quello. Ma mi pare che Gianni stesso sia, va detto che la Russia già non li, mi pare la Russia non applicava più questa, questo cambio della, dell'ora. Sì, infatti, e vabbè, comunque, cambia niente, tanto, anzi che l'inverno c'è freddo, è 5 buio, si sta a casa, che sia io e Gianni ci abbiamo il cane, un'ora che veramente li arrivi, è stato questo, portarlo in campagna, e niente. La prossima cosa già fare, però mi piace un grande impegno a casa così, perché devi portare anche se c'è freddo, se piove, anche l'anno scorso dici roba di freddo a prendere, a 7:30 la portavo giù vicino all'edicola, nella piazzola della circoscrizione, sentiva un'aria lì, infatti poi non la portavo più, portavo qua sotto, ma anche qua quando c'è freddo, c'è freddo, non è buccia e gioga. Ma già, poi una volta, vabbè, tanti anni, in passato c'erano quelle lampadine anche in incandescenza che erano proprio la, tipo da 100 watt, capito, anche quelle consumavano, consumavano, poi siamo passati a quelle neon, no, quelle col gas dentro, quella tortiglione. Adesso LED che consumano ancora meno, non consumano quasi niente. E qua è tutto LED ormai, tutto LED in qua, quasi tutto LED. Se non abbiamo completato lo completeremo. Perché sai, comprare le lampadine tutte una volta costa anche un po', me l'avevi detto anche tu. Ma appena si rovineranno quelle che ci sono, le prendiamo a lette. Ma io sono di Civoli. No, io qua le ho cambiate tutte. Anche le, quelle a stiro delle camere da letto, dei comodini. Ieri mia figlia, quindi solo quelle sono due, quattro, quindi sono due da una parte e dall'altra. Quattro. Però le ho comprate tutte le alcuni, no? Come ci lavora il cognato di mio fratello, allora mi ha fatto un ulteriore sconto, ne ho preso 20, non so se sono 25 o 26, una cosa del genere, 28, una cosa del genere, quelle grandi per i lampadari, quelle piccole a siluro, sono un po' mischiate, ma comunque tutte a letto, belle, tutte tonde, per il bagno, lo stesso rotonde, attacco piccolo, e poi quelle insomma, che ci vogliono nelle lampadari, poi le ho cambiate tutte anche qua, tutte, anche qui c'è la radio, tutto a letto, vediamo se il consumo è inferiore. Oppure una volta quando c'erano le lampadine incandescenza c'erano i neon, quelle a tubo lungo, no? I neon veri e propri. Poi quelle lampadine invece a risparmio erano già state un'evoluzione del neon, che poi era neon lo stesso, solo che avevano forme piccole, no? Fatte a tortiglione, a spirale, eccetera. E siamo stati un bel di anni con le lampadine incandescenza. Da quando le ha inventate coso, chi era che le ha inventate? Non mi ricordo, Edison. Mamma, che fai queste lampadine, che sono quelle intrecciate, che brutte. Che cosa fai a mettere in un lampadario quella roba lì? No, quella roba seria. Le a siluro che vanno nei lampadari del salone, lì ce ne sono 6, 3 in uno, 3 nell'altro. Tutte le altre sono rotonde, proprio sono lampadine normali, solo che sono bianche, però tutte le ho cambiate, tutte quante. E io c'avevo inizialmente qua, c'è l'impianto dei faretti anche, sono due faretti puntati sopra il primo banco del radio e poi un faretto in lontananza, lo accendevo spesso prima quello, ma cosa ride, sono a 200 qui, un caldo fanno. Adesso devo anche togliere, li tolgo perché non servono più, non servono proprio a niente, capito? Ho fatto un altro sistema a LED e tengo acceso quello la sera, come adesso c'è la lucetta di cortesia a LED che mi illumina un pochino, giusto per non stare al buio, per non accendere il lampadario a luce grande, capito, perché fa un bel luce. Yes. Poi inventeranno qualcosa fra 20 anni, ci sarà una rivoluzione anche lì, se non prima, magari le LED saranno passate di moda e faranno qualcosa di più moderno. E chi lo sa, per me stare anche al buio, anche la corrente ci vuole, la luce ci vuole, se no, hai visto quella pubblicità che fanno alla televisione, quella lampadina con la corda, tu tiri la cordicella, si accende la luce, non hai bisogno di niente, di gruppo elettrogeno, di nulla, forse quella va bene per i camper, non ne so, ma non capisco che autonomia abbia una lampadina del genere, mica la puoi lasciare tutta la notte accesa. Ma credo che vada a pile quella, per forza a pile, poi bisogna vedere se la pila è sostituibile o se è ricaricabile, non so niente, quelle sì, di cui fanno la televendita, e te ne danno mi pare 4 più 4, più altre 4, e mia mamma se le stava adocchiando, io ho detto occhio alle spese, tanto le troverei da Auchan. Tutte le cose che fanno vedere in queste televendite prima o poi arrivano da Auchan a un prezzo minore. Ah, c'è qualche mezza cagata, tipo una cosa dove non arriva corrente, per dire in una cantina dove non c'hai luce, la lasci appesa, quando scendi a prendere qualcosa tiri la cordicella e si accende la luce anziché scendere con la pila, capito? Un camper, una roulotte invece di tenere la luce accesa, per dire accendi quella, ci devi fare qualcosa, questa casa dei buoni si aggabbiata, ma vai. Ma infatti non capisco che autonomia abbia, come, qual è il funzionamento, se sono ricaricabili, se c'ha delle pile particolari, non lo so, dove le metti le pile lì dentro? C'è il portalampada con la lampadina e questa cordicella, tira la cordicella e si accende la luce, dove le metti le pile? Magari roba che ha una autonomia limitata, e comunque l'energia da qualche parte la devono prendere, quindi qualche pila ci sarà, qualcosa ci deve essere. Quindi so, per fare, quando ti metti in giardino, la metti tutto in cerchio al gazebo, quando si mangia assieme, per fare il cingon, mami, così per far scena. Poi sono anche colorate, no? Sono tutte colorate quelle lampadine, non le lampadine proprio, ma quel cordino lì, come lo vuoi chiamare? Sì, ma infatti, però, ti ripeto, non capisco che autonomia abbia e dove ha le pile, avrà quelle mini stilo che ti durano da oggi a domani mattina e poi da voi devi chiamare la pila, tanto vale che in un pareggio una pila normale, capito? La batteria la uso quando la devo usare, io ce l'ho, c'ho quella grande ricaricabile che avevo in dotazione al lavoro, siccome era la mia perché me l'avevano comprata per me, me la sono portata via, e quando manca la luce quella rimane, quella te ne dà autonomia, un bel, ma che si attacca alla 220, capito? E quella fonte di luce. Ripeto, cosa c'è? Cazzo, già sbaglio l'orario questo, che ore sono? 7.26, già c'è scrittura anche. Eia. E poi dimmi se vuoi andare, vai a portare Filippo, visto che ci stava venendo sonno. Ehi Marco, uia, sono letto, sono stanco, un bel, non bene. Eravamo, stava facendo tempo brutto, eravamo 3-4 giorni fermi, abbiamo ripreso un po' ieri sera, e poi oggi tutto il giorno, ma oggi veramente, minchia, io dopo ho portato il cane, mi sono cambiato, sono sceso giù, sono andato alle 10:15, 10:10, no, sono salito a pranzo e poi sono risceso alle 2:30, fino alle 5:30, non forse, ma se ne giurata. Caro mio, sì, comunque un saltino, piacerebbe fare un saltino una sera presto, no? Prima che cambi l'ora. O la rotonda, guardarmi il mare, o Polo Torres, voglio vedere lo scoglio lungo, sedermi al bar, capito? Grazie a Dio la macchina funziona e non sto mai uscendo. Ti ho detto solo a fare commissioni. Non va bene, no, non va bene. Caspita. E di quelle chiamate là più ricevuto ne hai? Da parte di alcuni CB? Sì, vabbè, di quelle chiamate là mi hai più ricevuto? No, zero totale. Vuol dire che si è rassegnato. Ieri mi ha lasciato messaggiando con Gianni, mi ha dato un po' di foto delle, che curiose che sono quelle, quegli affari che c'è lui, le cavie, bellissime, a mia figlia piace un bel, infatti la faceva un pensierino, e poi quando sento Gianni glielo dico dove li ha presi, perché ci vuole un bel di attenzione a quegli animali, molta attenzione. Poi quelle sono a pelo bello lungo, devi anche fare la manutenzione del pelo, poi un po' costosetta, mi pare la lettiera, il mangime, però se li piacciono, a chi piacciono fa un sacrificio, insomma. Beh certo, usa, non fa passare subito, cambia le luci. Ma sono belle veramente, sono belle, sono curiose, sono molto gli occhi dell'uomo e poi sono belle anche da avere. E io vabbè, mi ci ho cercato un tempo, un periodo, vabbè a casa di mamma, però non qua, non ero neanche sposato, avevamo il merlo indiano, l'estate lo metteva nel poggiolo mamma, perché c'era molto stare al sole. A tutti quelli che passava salutava. No, quello è insegnargli le parolacce. No, non voleva mamma. Era un piccolo, non voleva mamma. L'ho insegnato a salutare tutti quelli che passavano. Ciao, ciao. Perché tutti le dicevano ciao, ciao. E lo rispondia, ciao, ciao. Poi sapeva fare bene il coso del gatto, il sciugazzo. Un gatto sembrava, ma quando lo faceva bene. E poi è morto di vecchiaia, poverino, è morto di vecchiaia, Arturo si chiamava. Già fa brutto anche il merlo indiano, però c'è volte fischia, però è bello, bello come ripete le parole, così come alcuni pappagalli. Però il merlo è fantastico nell'imitare i suoni, forse più del pappagallo anche. Non era bello, che c'era un becco rosso grande ma favoloso. siccome mia madre abitava al centro storico, abita ancora al centro storico, no? È molto trafficato, è stato perché scendono tutti per andare in piazza, eccetera. E dottor Zia sempre salutando, sempre salutando. Qualche parolaccia le avevo segnate io, però non lo ripeteva spesso. Ogni tanto quando le veniva così, no, fischiare. Oh. No, era buono, era bravo, educato, poco fischiato. Qualche volta così, se stava fuori nel poggiolo e c'era sole, ogni tanto una fischiatina se la fai, ma dentro casa era come che non c'era nulla, niente. Le piaceva molto il buio anche, capito? Quando teneva la luce accesa, mamma mi impazziva, stava sempre da una parte all'altra della gabbia. Allora gli aveva fatto un telo grande e glielo metteva. Andavi a vederlo ed era addormentato, si addormentava. La mattina era rompiballe, la mattina iniziava a fischiettare da presto per togliere il telo, sicuramente per farle vedere luce, capito? E allora mamma lo metteva fuori al sole d'estate. L'inverno stava sotto la veranda ed era molto bello. Ha portato mio zio da fuori, dall'estero, lavorava all'estero, fratello di mamma, l'aveva portato, allora si poteva portare, adesso non ti fanno più toccare niente. Beh, ma immagino che li vendano nei negozi autorizzati, no? I merlindiani. Non lo so se li vendono, i pappagalli sì, ma i merlindiani non lo so, perché è una categoria protetta di uccelli, capito? Infatti questo era arrivato a fuori, non mi ricordo dove lavorava fratello e mamma, comunque era all'estero l'aveva portato, era piccolo, era piccolissimo, adesso è fatto diventare grande, poi ha una gorraccia che niente, proprio diventato grande, apriva le ali, toccava da una punta all'altra della gabbia, c'era un bel gabbione che avevamo comprato lì alla casa degli animali a Porto Torres, toccava le ali, infatti avevamo insegnato a non aprire molto le ali, a stare, capito? Perché se no se le poteva anche spezzare, gigante la divinità d'umano, se ciò sembrava una cornacchia, sembrava prima uno di quei, come si chiama? Quando è arrivato a Bari a un passerotto, la buia è diventata una burraccia. Sì, perché avevo letto lo stesso che gli uccelli in genere, ma anche i criceti, cioè hanno bisogno del ritmo giorno-notte, veglia-sonno. Tant'è che gli uccelli mi pare di notte, non mi ricordo di certi momenti del giorno, cioè se tu tieni le luci accese di casa, no? Di notte, di sera, tardi, va coperta la gabbietta in modo che loro vedano scuro e dormano. Naturalmente poi gli uccellini non vanno messi in zone troppo rumorose, se no impazziscono. Io avevo visto un criceto, come si chiama quella via del Lupin Vecchio, che poi arriva in Piazza Tola, come si chiama quella via? C'era un negozio di animali una volta, non so se ci sia ancora. Sì che c'è, però adesso è al Capranet, ha venduto la casa degli animali, c'era lì, come si chiama quella via? Io ho capito comunque, di fronte lì a Piazza Tola. Sì, era lo stesso padrone che c'era qua in via Duca di Abruzzi. Hanno venduto, ha comprato Arca Planet, sia quel negozio, quello in via Duca di Abruzzi e quello degli Punti. Ha comprato tutto Arca Planet. Ah, quindi non hanno più animali, ma prodotti per gli animali, così? Penso di sì, lì ci sono andato ben poco io. E hai ragione, perché lì vendevano anche animali. Adesso non so se hanno continuato lì o hanno fatto come via Duca di Abruzzi, che hanno una scelta, una quantità di cose allucinanti, però sono care. Io ho comprato una brandina proprio nuova, non lettino. Lettino ce l'ha Filippo, lo lascio in camera da letto, vicino a me, siccome è troppo ingombrante. Allora gli ho comprato la brandina. brandina da tenere nel salone, proprio la brandina, brandina vera e propria, che è anche più igienica, più, capito? Quello 70 euro la volevo. Allora sono andato giù a Pretania dove va Gianni, dove c'è Conferama lì, al Zoo Market. Sono pagata 40. Quindi ti dicevo, siccome i criceti, quelli normali, no? Sono un po' come i topi, no? Dormono di giorno e sono attivi di notte. Questo me lo ricordo. Lì invece in vetrina, sapendo che loro dormono di giorno, non andavano messi in vetrina, c'erano una gabbietta con un criceto in vetrina, uno o più cricetti in vetrina, quindi gli veniva tutta la luce del giorno, anche l'abulotto del traffico di macchine che c'era all'epoca, e questo criceto era occhi chiusi che andava avanti e indietro, chiamava impazzito. Infatti così lo fa impazzire, sicuramente era andato di testa quel criceto. Hanno dei ritmi da rispettare, capito? Sono animali prevalentemente attivi di notte e quindi di giorno devono dormire un po' al buio, senza rumori, ma così l'ammazzi, poveretto. No, lo sto dicendo, mamma la metteva anche mio fratello ai coccoliti, le metteva il telo subito, proprio come rimaneva la luce accesa, le metteva al telo, perché devono dormire. Sicuramente anche Gianni fa così, non lo so, non lo sento, io dico come sta la cavia, perché è un animale completamente diverso dal criceto, ha un altro tipo di diverso, cioè un altro come vive, come mangia, come, capito? No, i criceti non mi piacciono, non mi piacciono, simpatici così da vedere, ma vedi, no, la cavia è molto più bella. Ci sono cavie che sembrano conigli, ma santo, sono grandi, allucinanti. No, quelli Gianni sono troppo belli, veramente. Ho dato le foto col filmino, molto belle, sono veramente molto belle. Poi sono tenerone, poi gioco con loro, quando lo prendo in braccio si addormentano. Io l'ho presa una volta, ce l'avevo con mio collega, ma morbida, sembra un coniglio, ok? Giga, ha parlato anche lì del fieno alla camomilla, aromatizzato la camomilla. Io ho trovato, l'ho visto Luciana, no? C'era del fieno per conigli, non so, cavie, e sentivo un odore che proveniva da lì, un bel profumo. L'ho usato, aveva un meraviglioso profumo di camomilla, bello forte. Ho detto, caspita, Ghiroghi, qua ci puoi fare pure il tè con questo fieno. Non il tè, la camomilla. Ma è roba per loro, capito? Proprio roba leggera, magari li fa dormire, li tiene. E poi Gianni le dà l'erba fresca. Ma dove c'è l'erba, adesso mi divello, me l'ha detto, la fa, gliela mette, me l'ha fatto vedere com'è. Ah, ma la mangiano, l'erba fresca, proprio quella alta, bella. So che mangiano anche le bietole, ma sono amanti della frutta, frutta, verdura, ne mangiano un bel. Costose sono, però sono molto simpatiche, sono molto belle. Va bene Marco, io ti lascio, lascio acceso, magari ti chiamo dopo. Non lo salgo, ma ho bisogno di uscire a prendere una boccata d'aria, perché sono veramente, mi sto addormentando nella sedia, ok? Eia, ti volevo solo chiedere se poi quell'articolo hobbistico di cui mi hai parlato l'avevi provato in un bacino grande? Ma il motoscafo te c'è? Sì, io non volevo essere indiscreto. No, cos'è? Non c'è niente da nascondere. Guarda, mi sono divertito veramente tanto, però non c'è molto divertimento, perché questa piscina non è grande, sono mi pare 10 metri per 6, 10 o 12 metri per 6, quindi come acceleravi, partiva in planata e arriva subito quello di bloccare se non si sbatte. Ma l'ho provato al lago di Barat, mi sono divertito da morire. Ah, lo sai com'è, cammina, ma la scia là, cioè, si solleva dritto e plana, è una cosa favolosa. Ma attento, avevo un motoscafo da 1,20 m, non è piccolino mi. Sì, sì, è una bella bestia. Mi ricordo che Pomponio ne aveva uno, che non so se gli era stato regalato o l'aveva vinto, non mi ricordo. Solo che lui, non avendo macchina, non avendo niente, quando mai lo proverà? Poi mi pare se n'era disfatto, mi pare. Non lo so, questo è una favola. Questa è una favola. È molto, ma molto bello. È un motore che è olio di ricino al comitì, come. Ma sai, tu cammina. Bellissimo, bellissimo. E come fratello sei andato al lago di Barat l'anno scorso, ma ti dico, guarda, ci siamo divertiti a morire, anche perché c'era il cognato che ne aveva uno più piccolo, però con un bel motore, maledetto, con un bel motorino, le dava la mattana, ma guarda, veramente una bella cosa. Al mare non fa portarlo, al mare non fa, ci vuole lago, fiume, insomma qualcosa che rimanga molto, perché se prende le onde si solleva dritto, può girarsi e fai danno, capito? Perché c'è una bella plancia, c'è l'ometto con gli occhiali legato nella sedia su in alto, bello, molto bello, molto bello. Qui siamo un bel divertito, sì, l'ho provato e ti dico che è un bel divertimento, meglio della macchina, perché un periodo avevo anche la macchina, sempre al comitì di Corio di Origine, ho comprato via Marsiglia, ho fatto una barca di soldi con l'avviatore e tutto, tre cose, però non mi divertivo come motoscafo. Ma a me me ne piaceva un elettrico piccolo, però non più di 70 centimetri, credo, 60-70 elettrico, perché se no il prezzo è proibitivo. Ma devi vedere un missiletto, naturalmente un missiletto sempre limitatamente al tipo di motore elettrico, però faceva il suo dovere, da. Se no quelli sono già modelli più professionali, allora il costo sale vertiginosamente. Due motori con l'avviatore, capito? E poi l'avviatore, cioè sono i due pulsantini, e lo parte. C'è il serbatoietto per il... molto bello, molto bello. Molto bello, non ce l'ho qua, se non ti avrei fatto la foto te l'avrei mandato. Ce l'ho dall'aria. Ma bello veramente, molto molto bello. Mi sono divertito un bel... Infatti quest'anno che abbiamo deciso di andare a San Saturnino, all'Eterno, all'aeroporto, perché mi hanno detto che c'è un laghetto, un lago artificiale, se non ho detto sto con tre giunghenti. Eppure ci sono giorni in cui l'acqua di mare è olio, anche alla Platamona mia, la rotonda. Una volta sono andato a Lazzaretto a fine serata, no, solo per guardare il mare, anni fa. Là tende a essere già più calma, no, perché era tanto tempo, ma di vedere quella volta il mare era olio, era anche surreale vedere un mare così fermo, lì sarebbe stato un bijou. Il problema è che bisogna sempre avere qualcuno che lo possa recuperare, perché se ti si ferma lontano dalla riva, caspita, e come si fa? Ci vuole uno che si tuffi e vada a recuperarlo. Il fiume lo stesso, il lago fiume, il lago può capitare di più, lo sai, perché ci sono canne, erbe che crescono sull'acqua, no? Da sotto l'acqua, insomma ci possono essere cose per cui l'elica si attorciglia tra queste alghe o erbe, insomma ti si può bloccare in mezzo al lago, e chi lo recupera poi? No, ma il lago di Barat non so se ci sei mai andato tu. Praticamente invece la riva, quindi nella riva e lo moglie, stai vicino, insomma, fai allontanare una decina di metri, poi lo fai rientrare, però ti diverti perché c'è spazio per fare le manovre. Però sai come ci curica quando gira? Ui ui ui. Bellissimo, no, ma poi quello che Massimiliano ha detto è preferibile usarlo sempre in acqua dolce, perché durano di più i motori e tutto, capito? Anche la manutenzione è sempre acqua dolce, acqua salata e soprattutto quella del mare è più pericolosa, perché c'ha le liche piccoline col pistoncino, capito? Coperto e sembrano motori veri, però è più pericoloso l'acqua salata dell'acqua dolce, capito? Sì, quindi dobbiamo andare lì alle terme, me lo porto, alle terme, Natale, dobbiamo andare, me lo porto, e invece me lo butto, non mi diverto poco, ma ho detto questi amici di mio fratello che c'è un laghetto artificiale, infatti se lo porta anche lui, facciamo un po' di show. Vediamo, mentre a Coso, ad Alghero, lì nella baia di Porto Conte, a Tramariglio, fanno addirittura le gare, però sono quelli offshore, così si chiamano, quelli lì, quelli tutti chiusi, insomma camminano, minchia quanto camminano quelli che... pure troppo. Io devo avere dei grandi spazi per farle andare. Sì, comunque l'acqua di mare distrugge tutto, se usi un motorino elettrico e ti entra l'acqua di mare lì, sciabileggia quanto c'è. C'ho rotto il rame, capito? Mamma mia. Quindi se entra acqua devi subito sciacquare acqua dolce, farla asciugare bene, lubrificare dove si può lubrificare, mettere spray cerici dove si può mettere, capito? Quello secco naturalmente. In acqua dolce no, è meno aggressiva l'acqua dolce, quello è vero. Anche quelli elettrici raccomandano l'uso in acqua dolce, ma ho visto un bel gente portandolo al mare, quando trova l'acqua calma calma è spettacolare, guarda. Bene Claudio, dai, ti lascio andare. Una passeggiata con quel piccolo discolo, eh? Buona cena e ci sentiamo domani. Ieri me ne sono proprio dimenticato, non so in cosa ero, in quale attività ero assorto, ma non mi ricordo. Non so, no, vabbè, abbiamo chiuso presto lo stesso, poi io questo ho aperto il cane, quindi adesso sono entrato alle 7, sono arrivato a un quarto, quindi una mezz'oretta abbondante così di chiacchierata, non è che piacere, almeno queste radio scaldano. Va bene Marco, dai, a domani allora, buona cena anche a te, buon tutto, saluto a mamma e ci aggiorniamo domani. Un saluto circolare anche a chi sta ascoltando. Ciao Marco, grazie di due chiacchiere, a domani, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, buona serata.